Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci dal Groove Master Studio, lo studio del groove, qui per il soundcheck prova del suono di Radio 24. Buonasera da Gegè Telesforo e buonasera alla immancabile oramai Silvia Barba, che praticamente si è installata una sorta di che cos'è questo? Una brandina? Che sono a mio agio qua. Buonasera a tutti, buonasera Gegè. Buonasera Silvia. Allora, anticipiamo che dopo l'informazione delle 20 saremo raggiunti dal nostro amico Giovanni Savastano, che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, quando insieme ad Andrea Angeli Bufalini Giovanni Savastano ci ha presentato questo volume che pesa più o meno 7 kg e 400 grammi, intitolato La Disco, storia illustrata della disco music. Poiché abbiamo già parlato del loro volume, oggi invece con Giovanni Savastano parleremo del suo lavoro, perché siamo interessati alla musicoterapia. Sì, perché Giovanni è psicologo, psicoterapeuta, docente di psicologia e filosofia e ha scritto articoli di psicologia su riviste specializzate, racconti brevi pubblicati da Feltrinelli e Giovane Holden. E siccome utilizza la musica per curare i suoi pazienti, cercheremo di capire con lui che cosa dobbiamo ascoltare, la musica, come la dobbiamo ascoltare per sentirci meglio. Esatto, quindi lo chiameremo dottore questa sera. Lo chiameremo dottore. Dottore, come mi sento? Come mi sento? No, io mi sento discretamente, a parte in alcuni momenti, quando per motivi di lavoro, scusate, sono costretto ad ascoltare musica non così bella, mi deprimo. Ti avveleni un po'. Ti avveleni. Oh, mi avveleno. E ti avveleni pure tu, no? Perché poi la passo a te per avere un giudizio obiettivo. Perlomeno siamo in due ad assumerci responsabilità per non mettere in onda certe cose. E come finché no? Metti in onda le cose belle, siamo tutti d'accordo. Poi, sai, arrivano le cose. Vabbè. Vabbè, lasciamo perdere, Silvia. Andiamo avanti come spesso facciamo. Fatto sta che tutti noi abbiamo dei brani, delle composizioni, delle melodie che sono diventate indelebili, no? Che fanno parte del nostro DNA. Ricorderai sicuramente la colonna sonora, che so, della tua prima volta, per esempio, no? No, non me lo ricordo, non c'era musica. Non c'era musica durante la tua prima volta. E questo vuol dire molto per me. Vabbè, non voglio parlare delle mie cose, voglio sapere piuttosto qual era la tua colonna sonora della tua prima volta. Devo essere sincero, Silvia, io non mi ricordo la prima volta. Voglio essere addirittura sfacciato, non mi ricordo neanche l'ultima. No, non ci credo. Però ti posso anticipare che cosa ascolteremo adesso. Va bene? Tanto per chiudere l'argomento. Va bene. Ascoltiamo un signore che ha un nome che è tutto un programma, e per la prima volta, vedi che torna la prima volta, per la prima volta lo proponiamo qui al soundcheck di Radio 24, perché questa è una cosa che mi piace tantissimo, far scoprire nuovi artisti e nuove sonorità ai nostri appassionati di musica. Questo signore si chiama Gabriel Garçon Montano. È uno con questo nome da dove arriva? Dalla Andalusia, dalla provincia di Caserta, da Berlino? No. No. Da dove arriva? Brooklyn. Ecco, tutti da Brooklyn arrivano. Vive a Brooklyn e le sue origini, però, l'hai detto bene quel garçon con questa R un po' così, perché la sua mamma è di origine francese, tant'è che il suo album, che si chiama Bichounet, Alma de Huila, Bichounet vuol dire, è un po' un nomignolo che non, di cui non sappiamo il significato. Ecco, certo, poteva scegliere un per l'album un titolo un po' più facile da pronunciare, no? Mentre Alma de Huila è un altro nome del comune colombiano di Garçon, che è poi il suo cognome, e quindi è un omaggio alle sue origini da parte di papà. Va bene, questo giovane talento, quanti anni ha? Hai detto? 27 anni. 27 anni, coniuga, così come fanno tutti i musicisti della nuova generazione, la passione per il soul, l'R&B, un briciolo di pop e anche di creatività indie. Più latina anche. Anche no? Più latina, va bene. Allora, ascoltiamo subito Gabriel Garçon Montano, il brano si intitola Everything is Everything, dall'album che si chiama Bichounet, Alma de Huila. Lo dirai sempre tu il titolo dell'album. Va bene. Un'altra proposta del soundcheck di Radio 24, Gabriel Garzón Montano. Sappiamo più o meno tutto di lui perché Silvia ci ha raccontato varie cose. 27 anni, vive a Brooklyn, sangue misto, titolo dell'album impronunciabile, il brano era Everything is Everything. Però tutti i titoli dei brani, degli artisti, tutte le notizie che noi diamo attraverso il nostro AirPlay sono tranquillamente visibili sulle nostre social media, per esempio sui nostri... sul nostro Twitter, la pagina è Soundcheck R24 e la pagina Facebook Soundcheck R24. Devi mandare subito il tweet a Gabriel Garzón Montano che lo stiamo celebrando. Già fatto. Hai già fatto? Sì. E ha risposto, ha retweetato? Lui retweetta e scrive anche, alcuni scrivono anche in privato, non ti dirò mai chi. Sì, hai capito. La pagina la gestisco io. Va bene, invece il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso, soundcheck@radio24.it. Direi di fare una cosa, mia cara Silvia, di andare ad assaggiare un altro brano da questo album impronunciabile di Gabriel Garzón Montano. A me piace molto questo ragazzo. Anche a me. E il brano si intitola Keep on Running. Soundcheck, il suono della musica. Dall'Australia con furore, praticamente come un koala, arriva Jordan Rackey qui al Soundcheck di Radio 24 con The Light. Abbiamo passato le sue prime composizioni e creazioni discografiche ormai un paio di anni fa, visto che siamo arrivati alla terza stagione del nostro Soundcheck, e adesso Jordan Rackey con strumenti, scarpe da ginnastica e qualche blue jeans si è trasferito a Londra e infatti adesso è accreditato quasi come artista britannico invece e australiano. E tra esatto. L'altro proprio da poco credo che sia... è reduce da un tour proprio in Australia e Nuova Zelanda, quindi è tornato un po' a casa a riproporre la sua musica da dove è partito. È tornato alle origini Jordan Rackey. A me piace tanto lui. Pure a me. Perché ridi? Tu quando parli di certi artisti ti emozioni. Guarda, perché, Jordan Rackey è uno di quelli che mi emoziona, ti devo dire la verità. Però è stato scortese con me su Instagram. Ma perché hai mandato le tue foto? No. No, mai. No, io sono una professionista. Certo. Gli ho scritto un messaggio. Guarda, però posso dire, Silvia, tu sei una professionista, sei bravissima, anche come vocalist, e prima o poi toccherà anche mettere in onda qualcosa di tuo e commentarlo, certamente. Ecco, però tu confondi, capito, la passione per gli artisti con un altro tipo di passione. Allora, tra un po' verrà lo psicoterapeuta e ne parlerò con lui. Però ti posso dire che gli ho scritto perché desideravo per questa puntata o per le prossime avere un'intervista con lui, visto che lo stiamo passando. Ci retweetta, ci scrive, ci manda dei commenti riferiti al fatto che noi lo passiamo nel nostro AirPlay. A me non ha risposto. Comunque forse li devi scrivere tu. Sì, però io te lo voglio dire. Per esempio, una mia amica, non dirò il nome, una bravissima musicista di fama internazionale, mi ha confessato di avere il debole per i talenti e mi ha detto: io a volte sono stata con uomini veramente brutti ma dotati di grande talento. Io non so poi di quale tipo di talento. Io ho capito, anche chi è l'artista. Sì, si riferisse, però questa musicista mi ha detto: io di fronte al talento perdo la testa completamente. Ma io non ho perso la testa per Jordan Rackey, perché mi devi dire queste cose? No, ma perché sto anticipando l'argomento con Giovanni Savastano, io voglio parlare anche di queste cose col nostro psicoterapeuta e parleremo di quanto è importante la musica per sottolineare la nostra vita. Oh, va bene, per migliorare la nostra vita e la nostra esistenza. E a proposito di questo, io ho una richiesta da farti. Allora adesso, visto che abbiamo parlato di questo, non voglio chiederti... Non mi spoglio, perché... No, non confondiamo. Voglio ascoltare un brano molto bello che stiamo passando da qualche settimana e voglio sapere un po' di più da te di questo brano. Vuoi sapere qual è? Sì. Il brano è Let the Children. Oh, e vuoi sapere da me? Voglio saperlo da te, perché Gatta ci cova, vabbè, intanto, insomma, più di tanto non può covare la gatta, perché ecco, le cose poi vengono fuori. E certamente è un'operazione molto particolare nella quale... Sei coinvolto. Sono coinvolto al 100%. Un progetto che si chiama Fun Slow Ride, che mi ha dato la possibilità di vivere un bel periodo a New York dove abbiamo registrato e lavorato con alcuni fra i vocalist più importanti della nuova generazione. Adesso questo progetto ha il secondo singolo, che è proprio Led Children, questo brano dedicato all'infanzia, ai bambini. Devo dire, l'ispirazione viene proprio da quello scritto bellissimo di Khalil Gibran, che sta uno dei passi del profeta di Khalil Gibran, quello dedicato ai figli, interpretato nella scrittura e anche nel spoken words da uno dei miei migliori amici, che è Ben Sidran, che racconta come dobbiamo comportarci nei confronti dei nostri figli e dei bambini. Ben Sidran, allora, con le voci di Joy Dragland, vocalist accreditata a New York, e poi c'è un altro signore che è italiano e che fa capire qual è il suo talento, che è Ainè. Chi è Ainè? Ainè è mio nipote. Ecco, Arnaldo, vedi? Santoro. Vedo che sei emozionato, ho ragione a voler sentire questo brano. Sono emozionato perché è forte, a me piace. Fun Slow Ride al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. E dall'album The Good Fight, questo era Odyssey con That's Love. A proposito di prime volte, questa è anche una prima volta in una radio italiana. Un brano di, lui si chiama Amir Mohamed El Khalifa. Gegè, lo conoscevi? No. Chi ce l'ha proposto? Francesco Tromba. Sì, diciamolo. Francesco Tromba, che pur non partecipando attivamente al soundcheck è rimasto uno dei nostri pusher di musica. Esatto. Perché la passione, per quanto lavori con Giovanni Minoli sempre su Radio 24, di notte si sfoga mandandoci dei brani. Sì, cercando musica e facendoci da pusher. E allora, siamo quasi per andare all'informazione di Radio 24, ma abbiamo ancora il tempo per presentarvi ancora una volta l'arte e il talento di Anderson .Paak. Album finalmente pubblicato dopo aver realizzato vari singoli e partecipato a varie produzioni discografiche di varia natura. Il nostro Anderson .Paak, che ha sangue misto ma è californiano di adozione, anzi non si muove proprio da Venice Beach, Malibu. Infatti l'album lo ha intitolato Malibu, no? Esatto, proprio dedica alle sue origini. Sai che cosa è bellissima? La copertina dell'album. Coloratissima. La copertina è veramente bella. C'è un disegno, tra l'altro è un disegno, sì. Lui seduto al pianoforte in mezzo alle onde. Esatto. del mare californiano. Devo dire che l'album, posso dire? Dillo. L'album mi è piaciuto, ma non tantissimo. Non tantissimo, quasi mi piace più l'operazione fatta con Blended Babies. Che era bellissima, Make It Work. Make It Work, passato. È vero? Non lo so, io lo sento un po'... Comunque è forte, no? Stiamo parlando di un'operazione discografica molto interessante, innovativa, a cavallo fra l'R&B e l'hip hop contemporaneo, però il suono lo sento molto sporco, non tanto definito, come se l'album fosse stato realizzato in un home studio più che in uno studio accreditato di Los Angeles. Ma in California è così, la vivono cool, si vedono, registrano, fanno cose, lui partecipa a tantissimi progetti. Sì, devo dire, l'album anche a me non è che ha entusiasmato particolarmente, però, come dire, è il nuovo talento, va ascoltato e magari messo anche tante volte fino a capire se effettivamente... No, ma sta avendo successo. Tantissimo. Infatti anche a Londra sta spopolando, e Anderson .Paak ci propone qui, con la partecipazione di The Game e Sony Elise, un brano intitolato Room in Here. La particolarità di questa composizione è che c'è una campionatura, un loop portante di questo pianoforte che gira, probabilmente recuperato da qualche vecchio disco di jazz, sul quale poi è stato creato tutto l'impianto ritmico e tutta la struttura di questa composizione. Anderson .Paak torna al soundcheck anticipando l'arrivo del nostro psicoterapeuta, musicoterapeuta Giovanni Savastano, qui su questi schermi, subito dopo l'informazione di Radio 24. State con noi. Soundcheck. Il suono della musica. Puntualissimi dopo l'informazione di Radio 24, qui dal Groove Master Studio per la seconda parte del Soundcheck, e vorrei fare subito i complimenti al nostro amico Giovanni Savastano, che è arrivato puntualissimo in studio, prerogativa credo di uno che nella vita fa il musicoterapeuta, oltre a fare anche lo psicologo, psicoterapeuta, ma per uno che utilizza la musica come cura è una proprio alla base di tutto, intanto per la serietà professionale che un medico deve avere, e poi per uno che cura con la musica credo che anche il senso del ritmo sia fondamentale. Giovanni, benvenuto al Soundcheck. Grazie a te Gege, buonasera a voi, e sì, partiamo con il piede giusto, allora diciamo con il ritmo giusto. Sì, grazie, noi ci eravamo lasciati qui nel nostro studio con la puntata dedicata alla disco music, sì, no? Perché sì, avete scritto questo libro con Andrea Angeli Bufalini, che credo stia andando abbastanza bene, ne sento sempre parlare, sì, lo vedo dire, in giro. Siamo molto soddisfatti, sta andando bene. Molto bene, però ci eravamo lasciati con una promessa che saresti tornato per parlarci di musicoterapia, cioè utilizzi la musica durante le tue sedute come psicologo, e allora direi di partire proprio dall'argomento basic, che cos'è la musicoterapia. La musicoterapia è proprio l'utilizzo del suono all'interno di un dialogo. Quindi quando le parole non bastano più, quando diciamo i racconti e le narrazioni diventano ridondanti, e si sa che insomma le parole poi sono sempre uno strumento di difesa troppo razionale, no? Rispetto all'emotività, allora si lancia la moneta del suono, della musica, quindi del linguaggio non verbale, che è molto legato alle emozioni e al corpo, e quindi che ha un potere che è quello di liberare proprio delle energie che fino a quel momento invece erano rimaste compresse. Non parlo solo del paziente, parlo anche del terapeuta, nel senso che io uso la musica, e quindi sia diciamo questo interesse mi è venuto per una motivazione personale, perché ascolto musica da sempre, la faccio anche quindi nel mio piccolo, e ho pensato un giorno di proprio mentre studiavo di volermi specializzare in questo, perché trovavo che in alcuni ascolti che facevo da solo o insieme si liberavano delle potenzialità, delle energie e delle visioni che le parole non riuscivano a liberare. Quindi è proprio la interconnessione che la musica mette in atto tra la mente e il corpo, una liberazione di energia. Quando la psicologia ha capito che poteva utilizzare la musica come strumento curativo? Ma io direi a livello proprio di letteratura siamo intorno agli anni 50-60, cioè lì diciamo una svolta, poi quando si comincia a parlare di bioenergetica, ma anche nell'ambito del ramo di cui mi interesso io, che è quello della terapia familiare e dello studio della cura delle tossicodipendenze, lì negli anni 70 si è molto sviluppato il discorso della musicoterapia, quindi insieme poi allo yoga e a tutta una serie di tecniche la musica è entrata in maniera dirompente nell'ambito della terapia, non solo individuale ma soprattutto di gruppo anche. Bene, abbiamo introdotto l'argomento con il nostro Giovanni Savastano, e Silvia, io direi però di andare ad ascoltare musica e ascoltare una delle mie preferite in questo momento, che è la bravissima vocalist, pianista, pluridecorata in Canada, ma adesso da qualche anno vive a New York e si sta facendo apprezzare, ovvero la bravissima Laila Bialy. Il brano è tratto dall'album House of Many Rooms e ha un titolo che in qualche modo è vicino al nostro argomento, ovvero Upside Down, cioè dall'alto al basso, andiamo sotto e sopra, su e giù e così via. Soundcheck, il suono della musica. Se la bravissima Laila Bialy ha intitolato il suo album House of Many Rooms, il bravissimo Daniel Crawford con la sua batteria e la sua strumentazione ha intitolato questo brano Home, con la partecipazione di Cleveland P. Jones. E Home, ovvero la casa madre di Daniel Crawford, è comunque Madre Africa, ecco, lì è il concept. Giovanni Savastano è il nostro ospite per parlare di musica, ma per per parlare di musicoterapia, visto che utilizza la musica molto spesso nelle sue sedute come psicologo e psicoterapeuta. Quando ho detto House of Many Rooms ti si sono accesi, sì, gli special, sono perché? Accesi. Perché la connection, diciamo, è che in terapia, soprattutto di gruppo, io lavoro con una mia collega, posso nominarla, Maria Giuffrè, che, certo, la salutiamo. La salutiamo, e lavoriamo anche con le problematiche della dipendenza. Una delle metafore che usiamo in gruppo è quella della casa e delle stanze, quindi questi titoli mi hanno evocato proprio questo, e la musica c'entra perché in ogni stanza di questa casa immaginaria di gruppo ci sono delle musiche diverse. Tante volte, se abbiamo l'ambiente giusto, lo facciamo proprio anche materialmente, quindi se c'è un locale di 2 o 3 stanze ci attrezziamo, facciamo un percorso e in ognuna di queste stanze mettiamo delle musiche diverse a seconda della problematica. Facciamo un esempio pratico. Faccio un esempio. Per esempio, Silvia, ecco, è compulsiva nei confronti del sesso. Ecco. Sto giocando. Ormai è una simulazione. È una simulazione, no? Quindi una simulazione. La mettiamo in una, okay, stanza. Io invece sono fissato con gli strumenti vintage, no? Una cosa più banale. Vabbè, ma scusa, tu ti dai delle patologie, te le deve dare lo psicoterapeuta. E voi in che cosa sareste? È una patologia anche quella, perché uno che ha famiglia e continua a comprare strumenti è fuori di testa, credimi. È vero. Allora, e voi sareste uniti da quale relazione, diciamo, in questa cosa immaginaria? In casa? No. Con lei? Sì, no, siete indipendenti. No, no, okay. Noi vogliamo fare questo gioco con te. Okay. Tu ci devi sistemare nelle varie stanze e capire anche che tipo di musica ci proponi. Allora, io direi a Silvia la mettiamo in una stanza dove, a proposito poi di musica soul disco, dove mettiamo la suite intera di Donna Summer, Love to Love You Baby, che dura 17 minuti. Invece di curarla... Ma si cura attraverso la prescrizione del sintomo, diciamo. Ecco, è come l'antibiotico. Esatto, quindi con quella, se c'è una compulsione, mettiamo proprio un brano di sensualità. Perché non le proponi direttamente D'Angelo con gli addominali? Lo stavo per dire! Ecco. L'ho detto io, dai! A te invece, a questo punto, mi viene in mente una cosa che, a parte gli scherzi, questo brano e anche il prossimo che ti nomino li uso regolarmente, è il brano di Pink Floyd, A Source Full of Secrets. Ma pensa! Che è anche quello molto lungo, 12 minuti, è un brano fatto di strumenti e di suoni e di rumori, e quindi mi faceva venire in mente, visto che c'hai questa compulsione a comprare gli strumenti, lì proprio ce n'è di ogni e di tutto. Fatto sta che utilizzi la musica, come dicevamo, come un antibiotico, quindi sì, tu vai a stimolare. Vado a stimolare la parte dolente. La parte dolente. Ecco, per utilizzare la musica nella tua attività, nel tuo lavoro, sì, come medico, sì, hai dovuto studiare? Si fanno dei corsi? Cioè... Io ho studiato, ho fatto dei corsi, dei master, delle specializzazioni, e devo dire che però di molto ci ho messo anche un po' di mio, lo dico senza falsa modestia, nel senso che a me la musica ha sempre appassionato, quindi, come dire, ho aperto proprio una porta spalancata. Poi non lo dire a me, nella musica, certo, c'è l'improvvisazione. C'è l'improvvisazione, e quindi soprattutto nel ritmo, no? Una delle cose, per esempio, che uso è semplicemente il ritmo, soprattutto nelle terapie di coppia, quando ci sono dei conflitti e non riescono a parlarsi e si urlano addosso, allora li stoppo e dico: ok, non parlate più, battete la vostra mano sulla gamba e fate un ritmo. E quindi da quel momento lei comincia a fare un ritmo, lui ne fa un altro, sono in genere molto diversi, e allora li faccio stare lì 3, 4, 5 minuti a fargli sentire l'effetto che gli fa questo ritmo completamente diverso, se si integra, se non si integra. È la bellezza del mondo, no? È bello perché siamo vari. Nel mio caso, no? Nelle mie storie, la musica alla fine mi ha creato dei problemi, no? nelle relazioni, perché troppa musica. E invece le ragazze ogni tanto vogliono parlare. Ecco, è vero, sì. Invece... Sono d'accordo, abbiamo lo stesso problema. È così, no? Sì. Allora, io ti va di ascoltare qualcosa di Come nuovo, no? Giovanni? Sì, allora, sì, ti faccio ascoltare una band che a noi è piaciuta molto. Si chiamano Columbia Knights e vedono qui la partecipazione di un polistrumentista, anche bravo vocalist, chiamato Diggs Duke. Il brano si intitola Now. Questo è il soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Mua, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi Soundcheck, il suono della musica. Californiani Moonchild con la voce di Amber Navran, che è anche una bravissima sassofonista. Il brano era Ocean Deep qui al Soundcheck di Radio 24 con Silvia Barba, pronta per proporre i suoi personali quesiti al dottor Giovanni Savastano, che ci parla di musicoterapia. Allora, sono curiosa, visto che posso dirlo senza problemi, io vado in terapia. Ho la mia psicoterapeuta. Ma l'abbiamo detto, no? L'abbiamo detto, ma non per il motivo di cui sopra, volevo dire. No, mi chiedevo, esiste quindi una musicoterapia indotta? Mi spiego meglio, sei tu che scegli in base ai disturbi, alle patologie dei tuoi pazienti, quelle che sono secondo te e secondo la tua esperienza i suoni e le musiche che meglio si addicono a quello stato d'animo. Ti è mai capitato che qualcuno proponesse per esprimere le proprie emozioni un tipo di musica a cui tu non avevi pensato? Sì, assolutamente sì. Diciamo che io propongo un'esperienza e quindi all'interno di questo contesto poi tiro fuori queste proposte di suoni e musicali. Però una delle cose che faccio è anche quella di chiedere alla persona di portare proprio delle musiche, dei suoni e quindi delle canzoni anche vere e proprie, straniere o italiane non fa differenza, e quindi si lavora poi su questo. Quindi sulla anche diversità di proposta di approccio, per cui si prende la proposta della persona e come raffronto poi metto in ballo la mia e vediamo che cosa succede. E secondo la tua esperienza funzionano di più le canzoni, quelle dove si capisce dove è il testo più importante o dove è la musica più importante? Secondo la mia esperienza, diciamo in media statisticamente è proprio il suono quello che tira fuori le energie e anche i dolori, la tristezza, cioè tutte le emozioni, proprio la gamma delle emozioni possibili e immaginabili. Sul testo sì, ci si lavora certe volte e là incorriamo un po' nella cosa della razionalizzazione, quindi di entrare troppo, però per esempio in gruppo a volte si usano, io una volta ho usato in una terapia di gruppo per tossicodipendenti anche la canzone di, che poi è in inglese, però in quel caso il testo viene tradotto, di Gil Scott Heron, Home is Where the Hatred Is, che racconta la sua esperienza di tossicodipendente, quella, nella versione però di Esther Phillips, io la propongo perché mi piace di più, e quindi quella aggancia, il testo aggancia sicuramente, però spesso, molto più spesso è proprio la musica, il suono che entra. Come funziona una seduta? Dai, raccontami. La seduta funziona, devo dire che erroneamente uno la immagina quasi come se fosse un incontro o una seduta in una spa, no? In un centro massaggio, tu entri prima del massaggio e c'è la musica tibetana, campane tubolari, con tutti gli odori. Okay. Invece non è così. Ci possono essere delle cose, degli odori, insomma un'atmosfera particolare, questo sì, la luce per esempio, questo è importante. Però in genere si inizia, ci si parla, ci si conosce, poi dopo un po'. Tu non sei in vestaglia, insomma. No, non sto in vestaglia. Né okay. Tantomeno con la crema quella cioè, della maschera. E quindi si inizia, diciamo, poi un discorso di respirazione, si sta in silenzio, si chiude gli occhi, ci si concentra. In genere si fa anche un po' una fantasia guidata, quindi si pronuncio delle parole, immagino delle scene, e quindi le persone o la persona cercano di vedere queste scene nella loro mente. Dopodiché io in genere inizio con una camminata, quindi si cammina insieme, quindi ci si muove e si cammina, si emettono dei suoni, si fa quello che un po' uno crede di fare anche nel ritmo, ci si muove, si battono le mani sulle gambe o anche così tra loro. Dopodiché con questi esercizi di respirazione e questa camminata premo il CD e va e parte un brano. Ed è quello che faccio io adesso con Sid the Kid, The Internet, il brano si intitola Girl. Soundcheck, il suono della musica. E qui la vocalist Lila James con Anthony Hamilton. Lila James, una star del gospel contemporaneo, ce lo ricorda, Say That, praticamente di quello che ti pare, l'importante è parlare, l'importante è comunicare. cosa che un appassionato di musica come me, anche da musicista, a volte dimentica, soprattutto nelle relazioni personali. Faccio parlare la musica e la cosa a volte non piace, né mi porta fortuna. Beh, però chissà quante volte hai utilizzato delle canzoni come dediche perché non riuscivi ad esprimere magari chiaramente i tuoi sentimenti, hai inviato un brano o lo hai fatto ascoltare e hai ricreato quella situazione. Sì, soltanto che poi quando inizio ad ascoltare musica, e lo dico a Giovanni Savastano, resto lì nella musica e mi dimentico completamente di avere una personcina. Quindi diciamo che il problema inizia quando invece della canzone cominci a dedicare le playlist direttamente. Cioè, esatto. Tutta esatto. Una playlist. Allora l'altra persona dice vabbè. Allora Giovanni, abbiamo raccontato in qualche modo la musicoterapia, sì. Tu la utilizzi molto spesso, ci sono delle sonorità che preferisci? Noi sappiamo che sei un appassionato di disco music, certamente non è che puoi proporre Donna Summer e Le Chic a tutti, no? Ma dipende, sì, non a tutti, sì. Quello, in genere per esempio questa musica qua si propone alla fine di un percorso quando bisogna, si sono spese molte energie, recuperarle. Quando tu festeggi finalmente si, finito il percorso, si scatena, li mandi ci si scatena, a casa, sì sì. Con le fricche anche. Ecco, però qual è il range sonoro che utilizzi? Ma il range sono, allora un po' di cose le ho nominate già prima e sono molto spesso strumentali, diciamo, dove non ci sono parole. Il sitar indiano c'è sempre. Sì, quello sempre. Campane sì. Tibetane. Ci possono essere, sì, ogni tanto, però ecco tutto quello che è molto ampio, che crea spazio, quindi anche delle suite lunghe dove si ha il tempo di metabolizzare tutta una serie di cose. Ho nominato i Pink Floyd, però nel campo della musica nera Isaac Hayes per esempio, che faceva quei pezzi molto con quel mood di atmosfera di 10-15 minuti, quindi in quel contesto là non si parla, succedono delle cose e quindi questi strumentali sono molto, molto utili. E poi anche dei suoni, certe volte anche il suono, per esempio la mia collega che ho nominato prima si sta specializzando sul suono del gong, e quindi sulla potenzialità evocativa del gong rispetto ad alcune emozioni, quindi si può stare, immagino, anche penso un qualche minuto sentendo ton. Comunque abbiamo capito che la musica fa bene, la musica fa bene allo spirito, sì. E fa bene al corpo. Fa bene al corpo assolutamente, e poi fa bene alle, io dico fa bene, diciamo, alla, proprio alla liberazione di energia e alle visioni. Io personalmente poi, diciamo, se mi devo sottoporre una mia terapia, personalmente quando sento la voce in qualsiasi canzone di Ella Fitzgerald, io bravo, sto ma io voglio proprio bene, bene questo dottore, il mio cioè, dottore preferito, è diventato improvvisamente, cioè io anche proprio, se fai lo psicologo io mi farei fare pure una visita alla prostata da te. Cioè, quella, sto scherzando, scusate, no, non te la consiglio da scusa, mi è venuta così, ho dimenticato quasi di stare in radio. Ha detto la parola magica, Ella Fitzgerald, quindi va bene qua. Silvia, grazie per la partecipazione, noi ci rivediamo domani sera che abbiamo una puntata importante. Sì, grazie a tutti. Io volevo farti comunque i complimenti perché questa è la 300ª puntata del Soundcheck. Quindi auguri! No, lo volevo tenere nascosto, però come diciamolo. È pronta la bottiglia di champagne, appunto. Anzi di prosecco italiano. Grazie Giovanni. Grazie a voi, grazie veramente. Grazie al dottor Giovanni Savastano. Noi ci risentiamo allora domani per la puntata jazz. Domani parliamo di jazz standards. Bella puntata abbiamo preparato. Quindi a tutti voi buona serata e buona musica. Vi lascio con il sound potentissimo di un altro signore del gospel contemporaneo, il mio preferito, Reverend Kirk Franklin. Il brano si intitola Before I Die. Grazie Giovanni. Grazie ciao. A te, grazie a voi.